Kristen on the track. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. La volta che non ritornerà la voglia di stare di nuovo in forma, sarà tale a quando andavo giù, giù. Per dimenticare che su deve essere speciale, mi hanno detto tu lo sai più di quanto pensi tu. Non contare nelle mie di tasche, trovi poco, trovi più. Quando peschi nel vuoto, a poco nel mio luogo cambio modo ed è il boom. Mi sento nuovo, sempre in moto, vecchio nome, nuova crew. Se mi perdo nelle notti è suo blu, sono in bordo balordo, i bagordi nei borghi e lo sei tu. Se rispondi tu sei tutto di mondi paralleli, mentre il tuo va giù, giustamente se non lo sostieni. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. E se voglio una famiglia mia, credimi, è tutto a posto, davvero una meraviglia, credimi, non l'ho nascosto. Legami e tienimi più composto, lo sento e corrisposto, e voglio solo che lo senti pure tu. Amo il mio, mio modo nervoso per quanto mio. Amo il mio modo di tornare indietro quando sbaglio io. Il mio pensiero stupenda, qui dico Dio, per come mi guardi dentro e non so farlo neanche io. Anche tu, pure tu, che dici di stare attento quando poi su per giù è difficile stare a tempo. Quando poi metti di più ti ritorna a metà, quando avevi detto è facile affronti difficoltà. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. Cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre. Pure tu che volevi fare cose in grande, tanto più ti sei perso per provarne tante. Pure tu che speravi in una vita alla grande, senza più il pensiero di provarne altre.